La notizia della giornata giunge alla ripresa dopo la pausa pranzo. È un telegramma di cui il presidente della Corte d'Assise di Bologna, Michele Leoni, dà lettura appena rientrato in aula. Chiedo cortesemente alla signoria vostra di essere convocato nel processo Cavallini, onde depositare atti e documentazione di possibile interesse. Con osservanza, Francesco Pazienza. Si tratta del consulente del direttore piduista del Sismi, già condannato in via definitiva, oltre che per il crack del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, anche per i depistaggi alla strage alla stazione, con il capo della loggia P2, Licio Gelli, e due ufficiali dei servizi segreti, il generale Pietro Musumeci e il colonnello Giuseppe Permonte. Ora si dovrà decidere se ammettere Pazienza come testimone nel processo che vede imputato l'ex NAR Gilberto Cavallini, accusato di concorso nella strage del 2 agosto 1980. Nelle liste presentate dalle parti a inizio dibattimento il suo nome non compariva e la decisione è tutt'altro che scontata, dato che l'istruttoria è in corso e ai sensi del codice di procedura penale solo al termine potrebbe essere inserito. Intanto nell'udienza del 30 maggio si è proseguito con la deposizione di Francesca Mambro, l'ex terrorista libera dal 2013 dopo essere stata condannata a 9 ergastoli, compreso quello per gli 85 morti e gli oltre 200 feriti della stazione di Bologna, inflitto anche al marito Valerio Fioravanti e al terzo componente del comando Luigi Ciavardini, ai tempi 17enne e per questo giudicato colpevole dalla giustizia minorile. Nel secondo giorno di deposizione la donna è passata dai proclami politici ai non ricordo. Ho memoria di poche cose, ha sostenuto, aggiungendo però che questa città subisce una menzogna enorme. Lo ha fatto Francesca Mambro dopo l'ennesima domanda sui suoi movimenti del 2 agosto 1980 da Villorba di Treviso a Padova, dove ha detto di essere stata con Fioravanti, Ciavardini e Cavallini, che lì li ha poi lasciati a Prato della Valle per andarsene e ricomparire un po' di tempo dopo. La donna, già ai vertici dei nuclei armati rivoluzionari, per avvalorare la propria versione ha chiamato in causa le dichiarazioni rese negli anni 90 al giudice istruttore di Milano, Guido Salvini, che ai tempi indagava sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1960. In particolare ha chiamato in causa Carlo Di Giglio, l'armiere di Ordine Nuovo, che con le sue dichiarazioni consentì all'inchiesta di compiere alcuni degli importanti passi che portarono al riconoscimento delle responsabilità dei neofascisti veneti Franco Freda e Giovanni Ventura nella bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Di Giglio, noto nell'ambiente con il nome di Zio Otto, confermò che Gilberto Cavallini aveva lasciato sul davanzale del suo ufficio di Venezia e non di Padova un borsone di armi. Accadde il 2 agosto 1980, intorno alle 13:30, 2 ore e 5 minuti dopo l'esplosione di Bologna. La deflagrazione alla stazione risale infatti alle 10:25 e l'armiere di Ordine Nuovo sostenne anche di non aver scambiato con lui nemmeno una parola. Mambro di questo afferma di aver parlato fin da subito. Nella realtà però i verbali in cui si parla di Zio Otto risalgono a 15 anni dopo la strage di Bologna. Questione di dettagli non chiesti nel corso del tempo e dunque non esplicitate, si giustifica lei, ricordando anche gli interrogatori resi al giudice istruttore di Palermo Giovanni Falcone, che indagava sull'omicidio del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. In un crescendo di tensione, Mambro a un certo punto ha esclamato: io non avrei dovuto parlare da subito, avrei dovuto restare lì a guardare il muro. Da qui ne è disceso un serrato botta e risposta con l'accusa rappresentata in aula dai PM Enrico Ceri, Antonello Gustapani, Antonella Scandellari e la Teste. Un botta e risposta su dichiarazioni attuali e precedenti, in particolare di nuovo sugli spostamenti di quel periodo, fino a quando Francesca Mambro ha affermato, rivolgendosi all'aula: tanta gente ha sempre mentito, voi vi siete fatti depistare, invece noi siamo stati condannati sull'altare delle necessità storiche in uno scenario politico internazionale. Questi gli accadimenti di massima in aula. Scendendo invece nei dettagli, occorre fare il punto tra ciò che Francesca Mambro ricorda e ciò che dice di aver dimenticato. Nella prima categoria, oltre al fatto di essere innocente per la strage, ricorda che dalla Sicilia a fine luglio 1980 lei e Fioravanti vennero via perché Francesco Mangiameli, il leader palermitano di terza posizione che poi assassinarono il 9 settembre sempre del 1980, li aveva cacciati dalla sua casa di Trefontana, dove avevano soggiornato nella seconda metà di luglio. Motivo? Erano vari, tra cui il diverbio sulle origini somale di Giorgio Vale, un altro componente dei NAR. Così furono costretti a tornare a Roma, ma la città non era sicura e allora, forse, il 30 luglio raggiunsero Taranto. Come? Mambro non ricorda, forse in treno. E di lì, di nuovo forse, ad attenderli c'era Mauro Addis, uomo della banda Vallanzasca che stava procurando ai neofascisti un covo in Puglia. Ma anche Taranto non andava bene e allora, forse sempre in auto con Addis, Mambro e Fioravanti tornarono a Roma in una convulsa sequenza di spostamenti che poi li portò a imbarcarsi nella serata del 31 luglio su un volo per Venezia, dove trovarono Gilberto Cavallini ad attenderli. Come lo avevano avvertito, visto che quel trasferimento sarebbe stato deciso all'ultimo momento, neanche questo viene spiegato. Forse gli ha telefonato Valerio, ha ipotizzato Mambro, ma quando e a quale numero non si sa. Questo è un grande interrogativo, ha concluso il presidente Leoni, secondo il quale difficilmente Cavallini poteva essere stato informato tramite il numero di telefono dell'agenzia di sua moglie, chiusa la sera in cui decisero di partire per Venezia, ed di qui arrivarono poi a Villorba, dove trovarono anche Luigi Ciavardini ad attenderli. Ho subito avuto un atteggiamento di collaborazione, ha ribadito la Teste, secondo cui nell'estate del 1980 l'unico progetto comune dei NAR, oltre a sparare sulle forze dell'ordine, era l'evasione dell'ordinovista Pierluigi Concutelli, l'assassino del magistrato romano Vittorio Corsio, ucciso nel 1976 mentre indagava su eversione, P2, sequestri di persona, riciclaggio dei riscatti e banda dei marsigliesi. Trovo singolare che mi venga fatta una richiesta sul 2 agosto così tante volte, ha detto ancora Mambro. Quello che ricordavo l'ho detto, quello che non ricordavo non l'ho detto. Ribadisco l'assoluta estraneità delle persone imputate e condannate nella strage del 2 agosto.